Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo della più grande voce blues della storia del rock. Parliamo di un personaggio incredibile, perfettamente in linea con quegli anni folli tra la fine dei 60 e gli inizi dei 70, per chi li ha visti. Parliamo di una ragazza che per tutta la sua vita ha vissuto il complesso del brutto anatrocolo, una personalità particolare, una che ha rotto gli schemi ma che è stata travolta e si è perduta per la sua vita di eccessi. Parliamo di una donna ribelle, passionale, ossessionata dalla ricerca di amore, di approvazione, un artista che però ha segnato intere generazioni di cantanti e di tante che hanno provato senza grande successo a imitarla. Oggi parliamo di Janis Joplin. E ci dobbiamo immaginare una ragazzina un po' in carne, goffa, con il viso segnato dall'acne, una che si rifiuta di indossare gonne, veste con i pantaloni, con le camicie larghe, una ragazzina con i capelli crespi, ribelli, portati sciolti sulle spalle, una ragazzina che usa un linguaggio volgare, provocatorio, che si nasconde dietro a un carattere che non avrebbe. Niente di strano ai giorni nostri, però un vero e proprio scandalo nel Texas degli anni 50. E sì, perché siamo a Port Arthur, una città di provincia di poche decine di migliaia di abitanti, e qui nel 1943 nasce da un padre ingegnere e una madre impegnata in un college che insegna catechismo, nasce Janis Joplin. Famiglia religiosa, bigotta, lei è la prima di tre fratelli. Port Arthur è una cittadina chiusa, razzista, pettegola, moralista. Il motto della famiglia Joplin è astenersi, moderarsi, pregare. Nessuno dei tre insegnamenti verrà preso alla lettera da Janis, e non è difficile immaginare oltretutto che tutto questo a lei stia parecchio stretto. Si ribella all'ambiente chiuso, al perbenismo che la circonda, sviluppa modi mascolini, va in giro senza scarpe, è brava a scuola, intelligente, sensibile, ama la pittura, insomma ha una personalità decisamente fuori dal comune per quella arretrata cittadina della provincia americana. E queste sono le parole della sorella Laura. Era cambiata, aveva cominciato a condividere le idee degli artisti dell'epoca e a interessarsi di politica e di attivismo, a leggere gli scrittori beatnik come Ginsberg, Ferlinghetti. Stava diventando sempre più curiosa per qualunque cosa. E forse anche per questo che Janis alle superiori viene presa pesantemente di mira. La stessa Janis ha ricordato così la sua adolescenza a Port Arthur e la sua passione per il blues. Pensavano che fossi pazza. Non piacevo. Ma sai come sono i piccoli paesi? Una donna dovrebbe sposarsi appena finito il liceo, mettere al mondo una nidiata di figli e tenere chiuso il becco. E io non ho fatto nessuna di queste cose. Mi sentivo in piena sintonia con il blues. Quando sentivo un pezzo blues, c'era qualcosa dentro, una specie di onestà che nelle canzoni di Peggy Lee non c'era. Janis cerca rifugio nella musica, che in quegli anni tormentati è una delle poche cose in cui trova soddisfazione. A scuola naturalmente viene presa di mira dai compagni perché è originale, il suo abbigliamento e i suoi modi diretti la fanno sembrare una ragazza facile. Per le sue posizioni contro la segregazione razziale viene chiamata l'amante dei negri, per il suo aspetto fisico che non è proprio aggraziato viene soprannominata la più bella tra i maschi della scuola. Insomma, i compagni la tormentano, le lanciano sassi, monetine, gli insegnanti ignorano la sua intelligenza. Siamo in America, d'altra parte. Janis viene continuamente rimproverata, i suoi genitori vengono convocati a scuola, nessuno sembra accorgersi del reale valore di quella ragazza così diversa da tutte le altre. Lei sembra trovare rifugio in un gruppo di ragazzi più grandi che diventano i suoi unici amici. Altra ancora di salvezza è la lettura. È stata una delle prime a scoprire e leggere On the Road di Kerouac, ma soprattutto lei trova conforto nella musica. Volevano che diventassi una maestra, un desiderio da genitori. Ma poi ho cominciato a cantare quando avevo 17 anni. Prima ascoltavo un sacco di musica, poi un giorno ho provato a cantare e mi veniva bene. È stata una sorpresa che ha cambiato la mia vita. Sei lui. Ecco qui il colpo d'ala di Genesi, il colpo d'ala di molti, la musica, la scoperta della musica come rifugio e ispirazione. I suoi preferiti sono Big Mama Thornton, Led Belly, Bessie Smith, Odetta, insomma i paladini di quel genere musicale. Da loro prende ispirazione e sviluppa un'interpretazione potente, ha un timbro vocale mascolino di Bessie Smith. Janis dirà poi: Bessie mi ha mostrato l'aria, mi ha insegnato come riempirla, è stata lei il motivo che mi ha indotto a cantare. Nel 57 Janis è come una pentola a pressione che non riesce a trovare la sua valvola di sfogo, una beatnik. Le piacciono la marijuana, l'alcol, il sesso, la trasgressione, i viaggi in autostop, le piace dormire dove capita. Al primo anno di college a Beaumont, da scandalo, posando nuda per i corsi d'arte, frequenta il dormitorio maschile, organizza marce, manifestazioni contro le discriminazioni razziali. A 18 anni fa una breve vacanza attraverso il Texas, si sposta in autostop, chiede l'elemosina. Quando torna dopo il suo viaggio on the road è denutrita, ha un'infezione renale, inizia una terapia psichiatrica su consiglio della madre, che nell'estate del 61 la convince a trasferirsi per un po' da una zia a Los Angeles. Non sopportavo più il Texas, quindi me ne andai in California perché è molto più libera. Insomma, puoi fare quello che ti pare e nessuno ti stressa. Do what you want to do, nobody bugs you. È il 61, lei parte per Los Angeles su una mini Morris di seconda mano, trova un lavoro per una compagnia telefonica, poi fa la cameriera, ma si sta chiedendo cosa fare della sua vita e torna a casa e poi va a vivere a Austin in una comune chiamata Ghetto e ci rimane 2 anni. E per la vita di Janis questo è un periodo di esperienze fondamentali, si sente libera di esprimere tutta la sua energia, fa uso di droghe, scopre la sua bisessualità, ma soprattutto canta con i Waller Creek Boys, che fanno blues, folk e country. Il falco e il gabbiano. Abbiamo lasciato Janis Joplin nei primi anni 70 nella comune di Austin chiamata Ghetto nel 63, però decide che anche quel tipo di vita e quel quartiere le sta stretto, va a San Francisco e si apre un altro capitolo della sua vita. Intanto incontra un ragazzo newyorkese e si innamora di lui, si chiama Peter DeBlanc. Ma soprattutto a San Francisco lei entra nel giro dei locali beat e le sue esibizioni, perché nel frattempo comincia a esibirsi, si concludono sempre con un'ovazione, i presenti in piedi a applaudire. E dal punto di vista creativo e intellettuale, ricordiamo che quegli anni di San Francisco sono esplosivi già per il mondo e per Janis sono una vera e proprio cambio di vita e un altro colpo d'ala. Lei si appassiona anche a William Burroughs, di cui apprezza soprattutto le descrizioni di sesso e droga in pasto nudo, ma il contatto con il mondo beat per lei è anche distruttivo, perché ruba, vive dove capita, fa uso di stupefacenti, in particolare di metanfetamina sparata direttamente in vena, e poi arriva all'eroina, viene arrestata per furto e si butta a capofitto in qualsiasi esperienza estrema e qualcuno comincia a preoccuparsi sul serio, come l'amica Pat Nichols. She really needed to get off the streets. Aveva bisogno di uscire da quel giro, doveva reagire, dovevamo farlo insieme. Alcuni pensarono di organizzare un bus ticket party per farla tornare in Texas. In quel periodo pesava 39 kg, era un inferno. Looked like hell. Nel 1964 lei è tossicodipendente a tutti gli effetti. Per mantenersi, per procurarsi la metedrina da cui è dipendente, spaccia, si prostituisce e perfino la musica passa in secondo piano e in due occasioni arriva a un passo dalla firma con una casa discografica, ma la dipendenza dalla droga rovina tutto, perché quando se ne accorgono i discografici il contratto non glielo fanno e la vita dissoluta, disordinata, stanno rischiando di distruggerla. Nel 65 torna a casa Port Arthur, è distrutta dalla droga, pesa 40 kg, è piena di buoni propositi, è pronta a disintossicarsi, a sposarsi con Peter, col ragazzo che ha conosciuto a San Francisco, quello che le ha giurato amore eterno, quello che si è presentato dal padre per chiederla in sposa. Si iscrive all'università, prepara il matrimonio, ma il suo promesso sposo in realtà viaggia, non c'è mai, è una persona molto instabile, così le nozze sfumano e Jenny spiomba nuovamente nella depressione. L'amico Terry Owens ricorda così quel periodo. She felt alone. Si sentiva sola, tutti gli altri avevano trovato qualcuno, Janice era sola. Io odiava questa situazione, ha sempre cercato l'amore, sempre alla ricerca di amore e comprensione da qualcuno o da qualcosa. Somebody or something. Per Janice la fine della relazione è un colpo durissimo, anche perché lei per inseguire quel sogno di normalità si era disintossicata, aveva cambiato look, aveva i capelli raccolti in uno chignon antiquato, assomigliava alle signorine di buona famiglia, e se non fosse per i segni dei buchi sulle braccia coperti con le maniche lunghe, insomma ce la stava facendo, ma alla fine l'idilio si rompe e tutto torna come prima. Nel 66 lei torna a esibirsi a Austin. Quando lo scopre la madre si arrabbia perché è preoccupata che lei ricada nella droga, lo è ancora di più quando lei torna addirittura a San Francisco per un'audizione come vocalist con i Big Brother and the Holding Company, una band molto promettente, il cui nome peraltro si rifà al grande fratello Big Brother e alla Marijuana the Holding Company, una band formata da quattro elementi che la accoglie a braccia aperte perché l'audizione è un successo. La sera lei conosce il fotografo Bob Sideman che la ritrae nuda in quello scatto celebre, lei indossa solo le collane che porta al collo, si copre il pube con le mani, insomma il passo è fatto, lei è tornata in scena e la notorietà e il successo sono a portata di mano e lei ricasca nella stessa vita, fatta di droga, di avventure e di sesso. Per procurarsi le dosi di cui ha bisogno arriva perfino a frequentare gli Hells Angels, motociclisti. Dalla pessima fama e probabilmente anche da ideologie un po' diverse dalle sue ideologie di partenza, peraltro gente con la fedina penale sporchissima, insomma lei, prima cantante solista del rock, femminista, attivista, non esita a inserirsi in un mondo totalmente diverso da suo, sicuramente maschilista e violento, pur di ottenere la droga, perché lei della droga è di nuovo dipendente. E nel 67 Janice è di nuovo in scena, rientra nel mondo che già una volta stava per distruggerla. La sua famiglia non ha preso bene la decisione di rimettersi a cantare. Lei da San Francisco cerca di rassicurare i suoi genitori con lettere tranquillizzanti. Mamma e papà, con buona dose di trepidazione vi informo che sono a San Francisco. Capisco le vostre paure nel sapermi qui e devo ammettere che le condivido. Vi voglio tanto bene, mi dispiace. San Francisco sta esplodendo tutto, sono gli anni della controcultura, dei raduni di massa, la musica che unisce in nome dell'amore e della pace, i figli dei fiori, e loro, Janice e i Big Brother, si esibiscono al parco del Golden Gate, al mega concerto Human Being, aprono a Dallas i concerti di Chuck Berry. Nell'estate del 67, all'apice dell'epopea hippie, c'è il festival di Monterey a cui prendono parte tra gli altri Simon e Garfunkel, Otis Redding, Jimi Hendrix e poi c'è anche lei, Janis Joplin, col suo gruppo. La canzone è Ball and Chain e lei si presenta sul palco in una tutina scintillante di lamé argentato, è un'esibizione molto molto intensa. Colgo l'occasione per fare un appello a tutte le cantanti donne, quelle uscite dai talent, senza cultura, senza talento, senza un vissuto del genere. Lo so che la voce di Janis Joplin è eccezionale, non provate a imitarla perché ci fate brutta figura. Please, don't you never die. Ma ma torniamo al festival. È un trionfo, la band a grande richiesta torna sul palco, lei ottiene un contratto discografico, inizia a frequentare Jimi Hendrix, ma la loro è solo un'avventura, dura poco, anche perché lei definisce Hendrix manesco e violento, insomma era un altro che di problemi ne aveva parecchi. In quel periodo Janis frequenta anche Jim Morrison, non so se mi spiego, se li va proprio a cercare a uno, il chitarrista dei Big Brother, Jim Garley, definirà l'incontro un tremendo scontro di ego. Tra le avventure di una notte anche quella con Leonard Cohen, il cantautore se la dà a gambe, ma prima scrive la canzone Chelsea Hotel 2. Nonostante le avventure, gli incontri occasionali, nonostante l'attività sessuale rimanga frenetica, lei naturalmente rimane sempre sola. I suoi tentativi di superare l'infelicità di trovare qualcuno da amare falliscono miseramente. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di quella che è stata definita la più grande voce blues del rock. Stiamo raccontando la difficile, tormentata e però ricca di successi vita di Janis Joplin. Una ragazza scappata da una vita di provincia che le stava stretta, da una città natale che non l'ha mai amata. Una che si è salvata, anche se ahimè solo temporaneamente, grazie alla musica. Un personaggio pieno di eccessi, di fragilità, eppure una potenza inimitabile sul palco, con una voce graffiante che è entrata nella storia, così come le sue esibizioni. Il problema è che nella storia sono entrati anche i suoi eccessi. Nel 68 la carriera di Janis Joplin ormai è decollata, pubblica Cheap Thrills, considerato da molti il suo album migliore, arrivano i soldi, arrivano i contratti, le richieste di interviste, lei diventa un personaggio che tutti ricordano, i critici la amano, la consacrano come la più importante voce femminile della sua generazione. E poi, dopo i raduni di massa, i festival hippie, arriva il salto definitivo, il concerto all'Anderson Theater di New York, con recensioni entusiaste, il pubblico che l'adora, ma a lei non basta neanche questo, è così vitale e magnetica sul palco, eppure nella vita privata è sempre più distruttiva, autodistruttiva, e in realtà è una donna profondamente sola. Continua a avventurarsi in relazioni sbagliate, con uomini sposati, con persone che si legano a lei solo per la comune dipendenza da alcol e droga. Eppure lei dice: meglio 10 anni al massimo che 70 nella mediocrità. È difficile non precipitare, in realtà sarebbe meglio 70 al massimo, e lei poteva farlo. L'unica ancora di salvezza per lei è la famiglia, alla quale si aggrappa, cerca di mantenere un contatto soprattutto attraverso le lettere, e lì sono gli scritti in cui emerge tutta la sua fragilità. Cari mamma e papà, non credo di riuscire a tornare adesso. Tutto questo mi sta dando sensazioni più vere, vere per me. Molti dei conflitti che avevo li ho risolti, non prendo più i tranquillanti. Adesso mi sento come se non stessi mentendo a me stessa. Ma purtroppo non era così, lei vive una contraddizione profonda, perché da un lato c'è il successo, i contratti discografici, esibizioni magnetiche, acclamate dal pubblico e dalla critica, cosa rara. Dall'altra parte però c'è una donna fragile, insicura, alla ricerca disperata dell'amore, lo cerca in tutti, l'amore in uomini, donne, e solo il suo pubblico è in grado di saziare quel bisogno disperato. Però il concerto dura 2 ore, 2 ore e mezza, e ecco cosa dice l'amica Linda Gravnitis. Era entusiasta di ciò che le stava succedendo nella vita, e questo le dimostrava che, wow, tutta questa gente pensa che io sia straordinaria. La vita di Janis è musica, niente più politica né ideologia, ma soprattutto è successo e droga, eroina e cocaina e sesso. Nel 68 affronta gli ultimi tour in giro per gli Stati Uniti con i Big Brother, poi sceglie la carriera solista, lascia la band, la separazione non viene molto apprezzata dai fan e questo la destabilizza ulteriormente. L'anno dopo il debutto con la Cosmic Blues Band a New York e poi il tour. All'inizio le cose non vanno per il verso giusto perché sul palco i musicisti faticano ad assecondarla e quindi le prime esibizioni non sono un granché, lei ne soffre, però riesce comunque a stare bene, a trovare della pace, ma solo sul palco. Nell'istante in cui il concerto finisce rimane solo la sua sensazione di vuoto e la sua tendenza autodistruttiva. E poi c'è l'Europa, si va all'Olimpiadi Parigi, si va a Francoforte, alla Royal Albert Hall di Londra, dopo il concerto londinese va a casa di George Harrison e qui, almeno nella sua biografia si racconta così, non riesce a trattenersi dal fare avance a George Harrison davanti alla moglie. Lui la rifiuta, lei non la prende bene, il motivo lo spiega la sua biografa e amica Myra Friedman. Janis aveva un continuo bisogno che il suo fascino trovasse conferme. Anche quando diventò famosa, le restò l'ossessione di essere brutta e il sesso continuò a rappresentare più che mai il mezzo per attirare l'attenzione degli uomini. Più riusciva a sedurre maschi, più le sembrava di essere attraente. E al contrario, ogni fallimento, ogni rifiuto era una conferma della sua bruttezza. Così Janis non tollerava che i suoi approcci sessuali cadessero nel vuoto o nell'indifferenza. Janis deve fare i conti con tutte le sue insicurezze, aggravate dal fatto di sentire su di sé tutto il peso delle aspettative per il suo ruolo di cantante e di voce e di figura unica nel panorama musicale. Sentiamo cosa diceva a questo proposito in un'intervista. Le donne, per restare nel music business, pagano un prezzo altissimo. Per farlo una donna deve rinunciare a molto, una casa, un uomo, dei figli, degli amici. La vita ci mette a disposizione tutte queste costanti, ma la musica non è prevista. È ancora una cosa da uomini. Beh, non è un discorso di uomini e donne, secondo me, e il discorso è che è molto difficile conciliare il momento di successo, il momento in cui tutti vengono da te, fanno la fila per stringerti la mano, con poi invece le dinamiche della vita che sono ben diverse. Lei, insomma, fa fatica, diventa, è vero, un simbolo per donne che vedono in lei una ragazza sicura, forte, l'unica vera superstar della musica, grande come Jimi Hendrix, capace di stare sul palco come le rockstar, di duettare con loro. Però ecco, essere un simbolo è sempre molto difficile e rischi di rimanere delusa dal tuo stesso cedimento nel momento in cui si spengono le luci sul palco. Tom Jones la ricorda così. She was a wild person, but she was real. Era bianca, ma era vera. Era davvero una persona vera. È questo che mi ricordo di lei. Una donna vera che non ha mai fatto cazzate. Facemmo quel duetto insieme e quando finimmo mi disse: wow, ma allora sai cantare. Capisci? Per me quelle erano urla e grida, ma per lei quello era cantare. E Tom Jones si riferisce a un duetto mitico nel 69, un duetto tra lui e Janis Joplin trasmesso in televisione, la canzone era Raise Your Hand. I giornalisti la definiscono l'ardente sorella bianca del soul, la leggenda, la più grande interprete dai tempi dei Beatles, però poi la inseguono e il prezzo da pagare è quello. Lei fa serate su serate, ospite di programmi TV, però il suo desiderio di provocare sempre e comunque con atteggiamenti eccessivi, con un linguaggio volgare senza riuscire a trattenersi, alla fine tutto questo le si ritorce contro. Dopo lo show in cui canta Maybe, per esempio, Ed Sullivan si rifiuta perfino di stringerle la mano. Lei, che sembra così spavalda, in realtà ne rimane mortificata. Intanto si raffreddano i rapporti con la sua famiglia, che non tollera gli eccessi che ha visto in TV. Le liti con la madre sono frequenti e lei ormai beve mezzo litro di superalcolici al giorno, assumendo anfetamine e eroina. E poi arriva l'agosto del 69 e a Woodstock si tiene il festival, quello che è passato alla storia come il più grande concerto hippie di sempre. 3 giorni di canzoni, 500.000 persone, i più grandi nomi della musica del tempo. Naturalmente c'è anche lei, è distrutta, si sente male prima di salire sul palco e poi però sale su quel palco e canta Piece of My Heart. pochi giorni dopo Woodstock c'è un incontro che entra nella leggenda, l'incontro tra Janis Joplin e un giovanissimo Bruce Springsteen. All'epoca lui non era famoso, lei suona a Asbury Park, a una 80 di chilometri da New York, sta cantando quando nota un bel ragazzo di 19 anni, anche lui è un cantante, musicista, ha un gruppo che si chiama Child, è conosciuto in zona, e Janis lo vede, finisce la canzone, gli salta addosso e poi viene richiamata sul palco per un bis. A quel punto Springsteen, che evidentemente non aveva molto gradito quell'approccio così esplicito, esce da una porta secondaria. Un episodio che i musicisti che accompagnavano Janis e lo stesso Bruce raccontano in maniera molto divertente. Lui ne parla anche nella sua biografia, anche se minimizza gli avvenimenti. Mi sa che ci sono stati un po' di pettegolezzi al riguardo. Del resto avevo 19 anni, i capelli lunghi, e mi atteggiavo a stella locale come in fondo ero davvero a quei tempi. Nel 70 lei prova a disintossicarsi, inizia a assumere metadone e per allontanarsi dalla droga decide di fermarsi per un po', fa un viaggio in Brasile, sembra crederci davvero, lo scrive anche all'amica Linda. Mi comprerò un piano e per una volta proverò il secondo metodo. Ti ricordi di quella volta in cui discutemmo dei due modi di affrontare il blues cosmico? Uno è sballare e cercare di divertirsi il più possibile. L'altro è cercare di adattarsi. Bene, proverò il numero due. Niente più droga, passeggiate nei boschi, lezioni di yoga, forse non ridere, andare a cavallo, cercare di imparare a suonare il piano. Penso che tutto questo e la gioia di avere una nuova casa e l'incredibile pace che la circonda dovrebbero rendere tutto meraviglioso. Potremmo essere davvero felici là, e io ho proprio bisogno di te. Torna, per favore. Ma le cose non vanno come spera e lei pensa forse di essere abbastanza forte per tornare a Port Arthur, la sua città natale. Torna a casa convinta di sbancare tutto, vestita in modo originale, accompagnata come una star da un entourage di persone che per i texani di provincia sembrano dei marziani, lo ricorda la sorella Laura. Then I'm going, what are you doing? Le dissi, ma cosa stai facendo? Chi sono questi? Nessuno ti ha chiamato qui per fare uno dei tuoi spettacoli. Qui la gente ti vuole come persona, non come artista. Ma l'unica cosa che mi rispose fu, stanne fuori. Stay out of it. Eh sì, lei vuole prendersi una rivincita. Alla riunione annuale della sua classe del liceo vuole lasciare tutti a bocca aperta, mostrando quanto è diventata popolare, amata, di successo. Vuole cancellare per sempre la ragazzina paffuta e goffa che era stata. Vuole dare una lezione a chi non l'aveva invitata al ballo del liceo e l'aveva invece tormentata per anni. La riunione invece è un disastro. Eh sì, perché lei si rende conto troppo tardi di non essere forte abbastanza, di aver fatto un azzardo, ne esce ancora di più con le ossa rotte, perché lei si rende conto che nessuno a Port Arthur la ama, neanche adesso che è diventata una vera leggenda della musica. Intervistata alla riunione della scuola, lei cerca di dare l'immagine di una ragazza vincente che si è lasciata tutto alle spalle, sì. Sforza anche di parlare della sua famiglia, assicurando di avere sempre avuto il sostegno di padre e madre. In realtà il rapporto con la famiglia è compromesso, i contrasti sono forti e quello che viene fuori dalle sue parole è il ritratto di una ragazza sull'orlo di una crisi di nervi. I tuoi genitori sono stati sorpresi dal tuo successo? Sì, sì, credo proprio di sì. Mi ricordo una volta, ero piccola, qualcuno... un dottore disse a mia madre che se non mi fossi raddrizzata sarei finita in carcere o in un manicomio non appena compiuti i 21 anni. Poi, quando ho compiuto 25 anni e uscì il mio secondo album, mia madre mi mandò un telegramma per farmi i complimenti e perché mi ero raddrizzata. No, hanno sempre avuto fiducia in me, solo che temevano che il mondo mi avrebbe frainteso. Non sapevano che era il mondo che sarebbe cambiato. Pensano ancora questo di te? Questo non lo so. Il 4 ottobre 1970, poche settimane dopo questa intervista, Janis Joplin viene trovata morta in una stanza d'albergo a Hollywood. prima della dose letale, passa la giornata in studio dove rimane fino a tardi perché sta lavorando al bellissimo album Pearl. Poi si ferma in un bar, beve, si procura dell'eroina, arriva nell'hotel, si inietta la dose che la uccide, viene ritrovata 18 ore dopo. E sulla sua morte non viene aperta nessuna inchiesta, i rapporti medici all'inizio sono contraddittori, danno via a una serie di voci incontrollate, addirittura qualcuno dice che è stata uccisa dalla CIA, altri che è un amante durante un incontro erotico, altri ancora si è suicidata. Poi si chiarisce che la causa della morte è un'overdose accidentale di eroina così pura da essere 10 volte più potente di quella che assumeva regolarmente. Secondo la ricostruzione, lei ha perso i sensi e per effetto della droga ha sbattuto sul comodino da cui il sangue ritrovato nella stanza. Nessun segno di ferite, violenze sul corpo che comunque porta invece i suoi segni, quelli di anni di eccessi. Le sue ceneri verranno sparse nell'oceano. Muore a 27 anni, dando vita, insomma, a ulteriori leggende su questo club dei 27, Jimi Hendrix, Jim Morrison e poi in tempi più recenti Kurt Cobain e Amy Winehouse. Il suo chitarrista James Gurley dice così: non ero affatto colpito, specialmente dopo la morte di Jimi Hendrix. Non mi stupiva che anche lei avesse fatto la stessa fine. Come lui, anche lei era sola e insicura. Non ero affatto sorpreso. L'album Pearl schizza in cima alle classifiche e Janis Joplin è tutt'oggi considerata tra le 100 cantanti più importanti di tutti i tempi, inserita nella Royal Hall of Fame, Grammy Award alla carriera. Insomma, lei è diventata un mito. Una ragazza che ha cercato di farsi strada nel mondo del rock, ma non è stata capace di sopportare le grandi pressioni che già aveva, cioè il suo pregresso, oltre al fatto di essere diventata una rockstar. Eppure ha dato tanti colpi d'ala, ha volato molto in alto, ma anche quando stava in alto stava male. Questo è stato il terribile e meraviglioso destino e percorso di Janis Joplin. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, visitate i miei Facebook, Twitter e quelli nostri del Falco e il Gabbiano. Insomma, se volete, mi trovate. Ciao, a domani.